Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Subito un avviso di servizio. Con l'inizio del mese di maggio giunge a conclusione la nostra iniziativa europea, grazie alla quale tre fra voi ascoltatori potranno viaggiare in ottobre a Strasburgo. E allora non perdete la penultima occasione di partecipare a Giovani Talenti in Europa. Ultimissimi giorni per inviare i vostri racconti e staccare un biglietto per l'Alsazia. Oggi tornano anche i nostri controesodati con una bella storia di rientro in Italia, addirittura dal CERN di Ginevra, un percorso di rientro quantomeno inedito, no? E poi, come ogni primo sabato del mese, nuovi preziosi consigli su come cogliere opportunità in Estremo Oriente dalla viva voce di Emanuela Verrecchia. Oggi focus sui ricercatori in Cina. Giovani Talenti. La frase della settimana è copyright del presidente INPS Tito Boeri. Occorrerebbe fiscalizzare i contributi dei giovani facendo pagare le attuali generazioni che hanno beneficiato di trattamenti vantaggiosi. Secondo il numero 1 INPS, le risorse potrebbero essere reperite intervenendo sui vitalizi e sulle pensioni in essere superiori a 5.000 euro mensili. Boeri ha avvertito: non c'è tempo da perdere. Chi nato nell'80 ha già 37 anni. Per questa fascia d'età la disoccupazione è aumentata del 50% negli ultimi 7 anni, mentre i salari d'ingresso sono diminuiti del 20%. Inoltre, del milione di disoccupati under 35, circa 250.000 sono laureati. In tutto questo, paradossalmente, l'Italia si conferma pure tra i paesi con la tassazione più elevata sul lavoro dipendente. Nel 2016, secondo il rapporto Taxing Wages pubblicato dall'OCSE, il cuneo fiscale ha pesato sul costo del lavoro per un dipendente singolo senza figli per il 48%, quasi 12 punti sopra la media dei paesi più sviluppati. Per le famiglie composte da una coppia monoreddito con due figli, tasse e contributi sociali pesano per il 38,6%, il terzo dato più alto nell'area OCSE. Il paese dove il cuneo fiscale sul lavoro dipendente è più basso è il Cile, e tra i paesi meno esosi figura anche la Svizzera. Dalla Svizzera, magari non ci crederete, c'è anche chi decide di tornare. Ti accorgi di quanto l'Italia sia bella quando ti trasferisci all'estero. Ci sono cose a cui è impossibile dare un prezzo, che secondo me ben più che compensano il differente trattamento economico. Giovanni Bianchi, 33 anni, è un consulente informatico e start-upper, è rientrato dalla Confederazione Elvetica in Italia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio a notiziario. Gli studenti delle scuole superiori sono pessimisti sulle chance di trovare lavoro, ma nonostante questo privilegiano le proprie passioni rispetto agli sbocchi professionali. È il ritratto che ne fa Astra Ricerche. Tra i dati chiave dello studio, il 75% si attende un incremento dei giovani che emigreranno per cercare lavoro e il 36% si aspetta un aumento della disoccupazione giovanile in Italia. Il 40% crede che diminuiranno nella penisola le retribuzioni del primo lavoro. Un giovane su due intende però farsi guidare dalle proprie passioni nella scelta dell'impiego. L'anno scorso il tasso di impiego generale in Europa ha raggiunto un nuovo livello record, da 71%, lo rende noto Eurostat, che ha pubblicato l'indicatore di realizzazione della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi nazionali di occupazione. Obiettivi già raggiunti o superati in 7 paesi: Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Lituania, Svezia, Irlanda e Lettonia. L'Italia è terz'ultima col 61% dietro Grecia e Croazia. Ci sono però anche notizie positive: la disoccupazione giovanile a marzo è arrivata al 34,1%, ai minimi da 5 anni. Caso Brexit, daremo priorità assoluta alla difesa dei diritti acquisiti dei circa 500.000 italiani che risiedono nel Regno Unito. Senza un accordo su questo non possono esserci accordi seri, così il premier Paolo Gentiloni. Sindrome da Brexit. Uno studio condotto da Movinga ha messo in fila le migliori città europee dove emigrare per chi intende lasciare Londra. Dublino si è rivelata la migliore città per i lavoratori di banche e finanza, seguono Amsterdam e La Valletta, bocciata invece Milano. Chi lavora nel mondo delle start-up dovrebbe guardare a Berlino o, in alternativa, a Varsavia e Budapest. La Commissione europea ha presentato un'iniziativa nell'ambito del programma Erasmus Plus, che offre ulteriore sostegno all'apprendimento e alla mobilità dei giovani, denominata Move to Learn, Learn to Move. Permetterà ad almeno 5.000 giovani cittadini di recarsi in un altro paese comunitario in modo sostenibile, individualmente o insieme alla propria classe. L'iniziativa sarà aperta alle classi di studenti di età pari o superiore a 16 anni che partecipano a eTwinning. Sempre la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di avviare un progetto pilota per dare a circa 6.000 giovani laureati l'opportunità di svolgere un'esperienza lavorativa digitale nel periodo 2018-2020. Si tratterà di tirocini retribuiti della durata di 4-5 mesi indirizzati a studenti di tutte le discipline. I tirocini si concentreranno sulle competenze tecnologiche. E si avvia alla conclusione l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia solo fino alla prossima settimana e che da questa edizione vi ha chiesto di raccontare la vostra Europa. Sceglieremo tre di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovete avere tra i 18 e i 35 anni e dovrete inviare da ora fino alla mezzanotte di venerdì prossimo una email a concorsoeuropa@radio24.it contenente un racconto di massimo 1500 caratteri, spazi inclusi. Raccontateci l'Europa che avete vissuto o che intendete vivere. Inviateci i vostri personali racconti sulle esperienze di studio, stage o lavoro nel vecchio continente. Raccontateci quanto vi hanno fatto crescere, quanto avete imparato, quanto avete potuto allargare i vostri orizzonti. E se invece dovete ancora fare esperienze di questo tipo, beh, allora raccontateci come ve l'immaginate un periodo di studio o lavoro in Europa e perché, soprattutto, vorreste farlo. Inviateci le vostre proposte e quei dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e rilanciate l'iniziativa su Twitter con l'hashtag GiovaniTalentiUE. Attenzione, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di venerdì e nell'oggetto non dimenticate di scrivere la parola chiave imprescindibile per poter partecipare. Quella di questa settimana è Europa 9, ripeto, Europa 9. Tre racconti giudicati migliori si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo a ottobre. Vi ricordo ancora la casella email per partecipare, concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. La storia di questa settimana dei Giovani Talenti ci mantiene coi piedi ben piantati in Italia, come ogni primo sabato del mese, anche se con la consueta apertura internazionale che ci contraddistingue. Nome: Giovanni. Cognome: Bianchi. Età: 33 anni. Città di origine: Viareggio. Studi: ingegneria informatica. Anno in cui sei tornato in Italia: metà del 2014. Per andare dove? Viareggio. Perché? L'Italia è bella, la voglia di startup, ragioni sentimentali. Qual è il lavoro svolgi attualmente? Team leader nel ramo delle consulenze informatiche. Dove? Page Farm, tra Venezia, Treviso e Zurigo. Resterai? Sì, mi trovo bene. Il punto di non ritorno, eppure tu un punto di ritorno ce l'hai avuto, Giovanni. Tornare in Italia significa accontentarsi di uno stipendio che non arriva nemmeno alla metà di quello percepito in Svizzera, ma ritengo che la qualità della vita italiana compensi molto bene il compromesso economico da accettare. Così sintetizzi il motivo principale che ti ha spinto a tornare. Quali sono i parametri più nello specifico che possono rendere il nostro paese competitivo rispetto all'estero? Dunque, ho sempre detto che ti accorgi di quanto l'Italia sia bella quando ti trasferisci all'estero. Ci sono cose a cui è impossibile dare un prezzo che secondo me ben più che compensano il differente trattamento economico. Si pensi al nostro clima, buon cibo, il calore delle persone, la vita più rilassata. Abbiamo mare, montagne, campagne, città, arte e tradizione. Davvero i salari di Londra compensano una vita passata stipati in metropolitana per tornare ad un appartamento che cade a pezzi da dividere con quattro coinquilini? Eh già, questa è una bella domanda. Partiamo con la tua storia però. All'università scegli ingegneria informatica perché? Quali gli obiettivi di carriera? Quando ho scelto ingegneria informatica l'ho fatto senza pensare troppo alla carriera. Sono sempre appassionato di tecnologia, tutto qui. Però con gli anni, a questa scelta molto istintiva, si sono aggiunte motivazioni ragionate che mi hanno convinto che sia il percorso di carriera giusto per me. È sotto gli occhi di tutti, secondo me, come l'informatica è sempre più importante e presente nelle nostre vite. Quindi è anche specialmente l'avvento della robotica che cambierà, chiaro, sono convinto, il nostro modo di vivere. Che voto dai alla nostra università? Studieresti ancora in Italia se nascessi un'altra volta? Secondo me in Italia l'università, almeno quella di ingegneria, offre una preparazione tradizionale ma di ottimo livello. Ho notato, confrontandomi durante la mia esperienza all'estero con laureati esteri, che la nostra formazione in generale è più di ampio respiro rispetto a quella più specializzata e settoriale di università straniere. Questo, a mio modo di vedere, è un vantaggio. Tornassi indietro però forse considererei la possibilità di fare la specialistica all'estero, perché più esposizione alla lingua inglese e al modo di lavoro internazionale abbiamo, e meglio è al giorno d'oggi in questa società globalizzata. Giovanni, come approdi direttamente dal tuo ateneo al prestigioso CERN di Ginevra, un luogo dove molti tuoi colleghi vorrebbero lavorare? Sergio, con un po' di fortuna sicuramente. La mia idea era di fare un'esperienza all'estero, dovunque fosse, subito dopo la laurea. Quando si è palesata la possibilità del CERN, ero al settimo cielo e mi ci sono buttato a capofitto. Ecco, al CERN resti 3 anni e mezzo, prima con una borsa di studio, poi con un contratto postdoc. Che ambiente di lavoro hai trovato? Ah, l'ambiente del CERN è indubbiamente bellissimo. Si lavora a progetti stimolanti, si fa la conoscenza di persone di grande preparazione e intelligenza, e addirittura anche qualche vero genio, secondo me. Si vive un'esperienza internazionale e piena di giovani, con la voglia di fare, che vengono da tutto il mondo. Conosci fisici giapponesi con la passione per i trucchi di magia, scienziate cubane che ti insegnano passi di salsa, ingegneri inglesi che però... Stai incrementando la voglia di andare al CERN a lavorare, ho l'impressione. Una cosa molto rapida, di cosa ti occupavi nello specifico? Mi occupavo di 2 progetti. Il primo, collegato alla mia tesi di laurea, era lo sviluppo di un prototipo di un innovativo sistema di trasferimento dati da usare in contesti in cui le radiazioni impediscono l'utilizzo di sistemi convenzionali. Il secondo è un software di progettazione 3D di un componente molto importante dell'esperimento CMS, che è quello del bosone di Higgs. C'è un ma nella tua vita svizzera che poco ha a che vedere con la professione, perché lo hai detto tu stesso, un ambiente straordinario. Ma cosa non funziona per noi italiani in Svizzera? Tutta questa bella bolla calda, no? L'ambiente bellissimo del CERN, secondo me, contrasta molto con il freddo del pentolone di Ginevra, che è appunto trovato molto poco ospitale, molto fredda. Di Ginevra è difficile avere contatti con le persone del posto e ci si riduce a frequentare le comunità di espatriati, che però è un porto di mare. Ogni 6 mesi persone vanno e persone vengono. Inizia divertente conoscere acutamente gente nuova, però dopo un po' ci si rende conto che non si riesce a mettere radici. Chiaro, alla fine decidi di lasciare Ginevra, il CERN, e prima di tornare in Italia hai considerato però di andare in altri paesi? Ho pensato di andare a Londra, lì c'è molto lavoro giù nel settore informatica, però decidi di tornare prima in Italia per ricaricare le batterie e sono rimasto. E lo hai fatto tra l'altro con un progetto di startup che si chiama Strappo. Qual è l'idea alla base? L'idea è quella di permettere a chi si reca al lavoro di condividere l'auto per dividere le spese e risparmiare e anche combattere traffico e inquinamento, tutto tramite un'app per rendere l'esperienza moderna e intuitiva. App e progetto è al momento in stand-by, no? Perché? Due scogli abbiamo trovato, molto forti: la difficoltà di trovare capitale di investimento per sostenere la crescita del progetto e gli ostacoli legislativi. Di recente passa una legge che ordina un completo stop, per esempio, ad Uber, e loro sono molto grandi. E quindi, insomma, non hai trovato l'ecosistema forse adatto per poter sviluppare questo progetto? Io credo che in Italia si faccia un grande parlare di startup, così come fioriscono grandi incubatori, acceleratori. Il problema è che, nonostante la grande pubblicità che si fa, i veri soldi, quelli che rendono, che devono far girare le startup come negli Stati Uniti, non ci sono. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giovanni Bianchi, 33enne consulente informatico e startupper, rientrato dalla Svizzera in Italia. Giovanni ha rinunciato a una carriera al CERN per recuperare una dimensione di qualità della vita di cui, oltre confine, aveva cominciato a sentire la mancanza. Oggi ci racconta perché lo ha fatto e soprattutto come è riuscito a trovare la propria strada nella penisola. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Approdi ad H-Farm, incubatore, forse il principale, se non uno dei principali in Italia, per fare cosa? Avevo conosciuto H-Farm appunto durante il mio percorso di startup, però approdo a H-Farm non in qualità di startupper, ma in qualità di consulente informatico. Adesso sono team leader su un progetto di software bancario. H-Farm è un ambiente di lavoro internazionale, è la dimostrazione che si può fare anche in Italia, si può anche qui applicare modelli da respiro appunto internazionale. L'ambiente di H-Farm mi ha subito colpito molto positivamente, è giovane e dinamico, mi ricorda un po' quello del CERN. Ti confermo che secondo me con buona volontà e coraggio anche in Italia si può tirare su una realtà internazionale. Non ti chiedo se rifaresti la scelta di tornare, mi pare capire la risposta è sì, ma ti faccio un'altra domanda. L'Italia può essere salvata dai suoi talenti di rientro e se sì, come? Secondo me un'esperienza all'estero allarga gli orizzonti, ci dà una visione internazionale sul mondo di lavoro, ci insegna le lingue, l'intraprendenza, cose che, diciamo, secondo me un po' mancano all'Italia, che è un po' arretrata da questo punto di vista come mentalità. Ecco che tornare in Italia ci permette di riportare sul nostro territorio un po' di internazionalità. Ci raggiunge ora in linea Alessia Marsegaglia, che da quasi 2 anni ormai ci aiuta a districarci tra le tante storie di controesodati. Buon pomeriggio Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Alessia, sono tante le storie come quella di Giovanni in cui ti sei imbattuta in questi mesi, ti chiedo, di giovani che hanno lasciato importanti aziende o istituzioni all'estero per tornare qui. Diciamo che di solito chi torna dall'estero è perché stava appunto lavorando in importanti realtà aziendali o accademiche, nel senso che la scelta è proprio quella di andare al di fuori dell'Italia per cercare grandi opportunità lavorative. Il fatto di lasciare poi ruoli prestigiosi spesso però è legato, come abbiamo appunto sentito alle parole di Giovanni, a motivi personali e non perché in Italia c'è un'alternativa valida. Quindi diciamo che si torna nel paese che amano, che sentono proprio, un paese più accogliente, più sociale, dove c'è anche la famiglia vicino, e cercano in Italia in realtà dal respiro internazionale, cioè che gli facciano un po' sentire quell'odore che hanno respirato al di fuori per non rientrare magari in un contesto proprio completamente diverso. Questo da un lato ci consola perché c'è ancora un po' di attrattività, ma forse non è l'unica attrattività che dovremmo avere. È una mia impressione, Alessio, il tornare per fare impresa o provarci almeno a farlo è molto frequente, sempre più frequente. Cosa spinge i giovani su questa strada, quella del mettersi in proprio anziché cercare lavoro in Italia? Penso che ci siano sostanzialmente 2 vie. La prima è quella che chiamiamo positiva, per cui si rientra, si mettono a frutto le competenze acquisite all'estero conoscendo il mercato italiano, quindi si importa quello che si è imparato e lo si applica al mercato italiano, e questo è proprio l'essenza del ritorno di un talento. L'altra strada invece è quella meno positiva, per cui non trovano nulla che sia alla loro altezza e quindi decidono di creare qualcosa di proprio per rimanere sull'onda. Una tua personale impressione, hai trovato più donne o più uomini che tornano? Proprio personalissima, perché non ci sono moltissimi dati sull'argomento, a me è sembrato più uomini, ma per assurdo mi sono sembrate più coppie, nel senso che chi va all'estero spesso poi crea una famiglia anche all'estero e quindi poi decidono insieme di tornare per far crescere anche magari la loro prole, insomma i loro figli in un contesto italiano. E un'ultima cosa Alessia, hai l'impressione che dopo l'abolizione della legge contro esodo ci sia ancora la consapevolezza dei benefici fiscali riservati a chi rientra? Sono noti, insomma c'è stata anche un po' di confusione. Innanzitutto va premesso che una legge adesso c'è, la 147 del 2015, che ha anche maglie più larghe rispetto a quella precedente per incentivare il rientro. Però bisogna dire che uno non è conosciuta dagli expat, ma nemmeno dalle aziende italiane che potrebbero sfruttarla per assumere. E la cosa, secondo me, che va sottolineata è che anche gli expat che la conoscono poi non trovano nel contesto italiano qualcuno che gli sappia dare delle risposte concrete. Quindi ci vorrebbe, secondo me, lancio un appello, uno sportello ad hoc che sia in grado di dare risposte a queste persone che stanno affrontando una decisione importante, che è quella del rientro, quindi andrebbero sicuramente aiutate in questa direzione. Sì, solito pasticcio all'italiana, Alessia, purtroppo. Facciamo le cose, poi non le sappiamo spiegare, applicare, informare a riguardo. In questo ci confermiamo molto italiani. Grazie ad Alessia Marsegaglia. E domanda diritto per Giovanni Bianchi: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Partire, troppi bremor, un'esperienza all'estero bella, formativa e salutare. Non importa granché dove, basta che però si riesca a mettere a frutto le tue competenze, cioè non andare a fare lavapiatti a Londra, che non serve a nulla, secondo me. Pensare a quello che si sa fare e sicuro all'estero qualcuno che lo valuta si trova, però poi anche considerare l'idea di ritornare. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Facciamo ritorno in Cina per i nostri consueti consigli mensili su come sfruttare al meglio le opportunità di carriera in Estremo Oriente. E lo facciamo come sempre con l'Ideogramma, rubrica a cura di Emanuela Verrecchia. Oggi Emanuela ci parla di opportunità nel settore della ricerca. Nella puntata di oggi parleremo di ricerca scientifica in Cina, partendo dalla storia di Camilla Luni. Camilla, 36 anni, una laurea in ingegneria chimica a Padova, un Erasmus a Stoccolma e un postdoc di 3 anni a Santa Barbara, è arrivata a Shanghai 1 anno e mezzo fa con un contratto di 3 anni come professore associato presso l'Istituto di Studi Avanzati di Immunochimica dell'Università Shanghai Tech, un'università costituita nel 2013 dove insegnano alcuni premi Nobel. Camilla fa ricerca sulle cellule staminali e non è un caso che sia qui, essendo il settore biotech uno dei settori prioritari nel Made in China Plan 2025. Com'è fare ricerca scientifica in Cina? Contrariamente a quello che si può pensare, c'è oggi in Cina una fortissima spinta nella ricerca scientifica. I fondi stanziati sono superiori a quelli di molte università americane. I macchinari e le tecnologie per fare ricerca sono all'avanguardia, ci racconta Camilla, e quello che manca ancora sono le conoscenze specifiche in determinati settori. La ricerca sulle staminali è uno di questi, così come la capacità di fare uso di alcune tecnologie e strumenti per la ricerca. Ancora una volta quindi la presenza dello straniero è giustificata oggi in Cina dall'apportare una conoscenza che i cinesi non hanno in settori di loro specifico interesse. Camilla non fa didattica attiva in aula ma segue un gruppo di dottorandi cinesi. Quali vantaggi nel fare ricerca in Cina? Oltre ai maggiori fondi e tecnologie avanzate, come abbiamo detto, ci sono migliori possibilità di fare carriera e grande attenzione e spinta alla brevettazione da parte delle università e delle aziende collegate con gli istituti di ricerca universitaria. Consigli per chi fosse interessato a seguire il percorso di Camilla e fare ricerca scientifica in Cina. Il consiglio è di non limitarsi ai bandi pubblicati sui siti delle università cinesi, ma verificare sempre chi siano nello specifico i professori cinesi responsabili per la ricerca in questione e farsi introdurre dal professore di riferimento in Italia o comunque dall'università di provenienza. Per chi fosse interessato a saperne di più sulla Shanghai Tech University, il sito è shanghaitech.edu.cn. Per maggiori informazioni www.cinadifrontiera.com. Un motivo per restare o tornare. L'Italia è seconda in Europa solo al Belgio per aumento del numero di brevetti presentati all'EPO, l'ufficio di Monaco di Baviera. Il bel paese inizia dunque a riscoprirsi come una nazione anche di inventori. Per il secondo anno consecutivo si registra un deciso incremento di richieste presentate. Nel 2016 imprese e inventori tricolori hanno inviato a Monaco 4.166 brevetti con un aumento del 4,6%. A guidare l'inventiva è la Lombardia, da cui hanno origine oltre un terzo di tutte le richieste. In termini assoluti invece la quota di nuovi brevetti italiani copre poco meno del 3% sul totale di 160.000 domande presentate, cifra che ci colloca al decimo posto in un ranking guidato da Stati Uniti, Germania e Giappone. Il settore italiano più creativo è quello dei trasporti. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn con il gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni, anche le vostre denunce. Per mettervi in contatto con noi è semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Cerchiamo storie di under 40 espatriati, under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, under 40 stranieri a lavoro in Italia e giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh allora Giovani Talenti è la vostra trasmissione. E per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendoci a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email insieme ai vostri racconti per partecipare all'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.